Una caratteristica, diciamo, che ci differenzia pesantemente da Google è che Google nella ricerca dà solo, la ricerca tradizionale dà solo i risultati presenti sul web, quindi i classici 10 link presenti sul web. Ask ha adottato un modello integrato, il nome è Ask3D, in cui in una singola pagina di risultati vengono dati i risultati delle pagine web, le immagini, i video, a seconda delle differenti query, differenti tipi di risposta. Per esempio, se uno cerca musica, ci sono risultati specifici per la musica in un particolare pezzo, in un particolare settore della pagina di risposta. Quando un motore di ricerca lavora e lavora costantemente alla ricerca di dati sulla rete per creare questo grandissimo archivio per poi fornire le risposte, sostanzialmente un motore di ricerca che cosa fa? Ma dunque, sostanzialmente ad alto livello un motore di ricerca può essere diviso in due parti. Una prima parte che gli utenti non vedono, ma che continua a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gira la rete alla scoperta di dati. E quando parlo di dati non mi riferisco solo a pagine web, ovviamente le pagine web sono una componente importante, però poi abbiamo anche contenuti multimediali come immagini, come video o anche musica, per esempio, blog. Oramai il web 2.0 comprende tantissimi tipi di diverse informazioni. Quindi la prima parte del motore di ricerca va continuamente alla ricerca di queste informazioni, le raccoglie dovunque esse siano. Poi c'è la seconda parte del motore di ricerca, che è quella che gli utenti giornalmente accedono, che è quella che sostanzialmente, una volta che queste informazioni sono state raccolte, vengono indicizzate, un termine tecnico che vuol dire semplicemente si crea un meccanismo interno che permette di mettere in relazione una particolare parola con una serie di informazioni collezionate, e quindi quando un utente sottomette un'interrogazione al motore di ricerca, queste informazioni vengono restituite. Così il motore di ricerca ha sostanzialmente due parti che lo caratterizzano: la parte di raccolta e la parte di risposta delle informazioni raccolte. Quindi, diciamo, il buon funzionamento del motore di ricerca dipende da quanto sono brave le macchine, ma soprattutto poi quanto sono bravi i tecnici che stanno dietro nel far fare al motore queste operazioni, sostanzialmente. Sì, diciamo che ci sono due componenti estremamente importanti: quanto fresco, quanto aggiornato è l'indice, quanto grande è quest'indice, ma poi ovviamente la parte significativa è riuscire a fornire le risposte corrette ad ogni singola interrogazione sottomessa dagli utenti, quindi la parte di ordinamento dei risultati.